se io ho questo nuovo media, la possibilità cioè di veicolare un numero enorme di informazioni in un microsecondo, mettiamo caso a un aborigeno dalla parte opposta del pianeta, ma il problema è aborigeno, ma io e te che cazzo se dovevo dire? 16, 17, 18 ottobre. Tre giornate di lotta in solidarietà con le rivoltose e i rivoltosi del 15 ottobre 2011. Perché di fronte a una repressione che ci vorrebbe isolati e divise, la nostra solidarietà diventa più forte. Nessuno è solo, nessuna è sola. Appuntamento il 15 ottobre alle ore 15 al piazzale della Minerva dell'Università La Sapienza. La catastrofe è ogni giorno in cui non accade nulla. Ed eccoci perciò, 22-24 minuti primi, come avevamo annunciato con qualche secondo d'anticipo. E approfittando del buco lasciato da il buon elettrodo e le sue prove tecniche di trasmissione, io fantasma dico che c'è troppa luce qua dentro. C'è troppa luce. Rimediamo subito nel creare un po' di oscurità. Se la canticchia, eh? Ha detto che era allegro stasera. Eh sì, sono. Ecco. Eccolo qua, sì, è il 2 quello. Sto mezzo carico a pallettoni, eh. 22:25, nel frattempo è passato un minuto della sigla 25 o'clock, Radio Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza. Però beato chi la frequenta, questa frequenza. Della banda romana e laziale e soprattutto laziale. Onda Rossa, che ve lo dica a fa, lo ripetiamo sempre per sapere di più della radio, oltre a quello che vi diciamo noi. Andate sul sito www.ondarossa.info, troverete in podcast tutte quante le corrispondenze che più importanti che la radio produce. Andate su Sostieni e troverete lì tutte le modalità per sostenere Radio Onda Rossa, che vive libera dell'etere dal 1977, dal 24 di maggio di quell'anno. E vive libera nell'etere perché non ha padroni, non ha padrini, non fa pubblicità. I nostri spot e le cose che mandiamo in onda sono relative alle iniziative di finanziamento, politiche e di solidarietà, appunto, e di finanziamento delle varie strutture di movimento. nonché proprio l'auto, quelle relative all'autofinanziamento di Radio Onda Rossa. Vi ricordiamo quella che è la metodologia, con l'aiuto del fantasma ovviamente, più abituale per la sottoscrizione di Radio Onda Rossa. Il conto corrente è 61 80 40 01, da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volsci 56, 00185, San Lollo, Roma. ondarossa@ondarossa.info, la mail della redazione per mandare le vostre comunicazioni appunto alla redazione della radio. 25 o'clock@ondarossa.info, la nostra di casella elettronica, peraltro la state anche utilizzando, e credo anche quella del fantasma, che appunto è fantasma@ondarossa.info. Vabbè, pure stasera una telefonatina, un saluto che ci farà. E niente, sentiremo più tardi Chris dei Satanici Placcaggio Hardcore, che appunto è una band oi hardcore che viene proprio dalla Interland romano, da Colleferro se non vado errato. Band ormai che ha una sua storia e insomma abbiamo il piacere di ospitarla fra non molto. In termini appunto di un salutino telefonico, avevamo provato a farli in qualche maniera venire, però sono impegnatissimi. Niente, poi scopriremo, e poi perché, se guadagnano la stozza, insomma un po' questa è la storia. Roma è lontana, Colleferro sta distante, insomma, e noi trasmettiamo appunto nella notte di Roma e del Lazio, nonché anche in streaming www.ondarossa.info, ricordiamolo. Il numero della radio comunque per tutti e tutte voi per disturbarci, come sapete fare per trillare, è lo 06491750. Iniziamo non proprio a manetta, però a mezza manetta, dai, rock and roll stasera, e poi vedremo anche di riempire di contenuti questo altro puntata di 25 o'clock. sono Jordi White e Chris Gross. Gone Moon si chiama questo progetto. Leggers Last Leg si chiama il disco. E loro non sono proprio degli sconosciuti, bensì, insomma, dei musicisti che hanno suonato con band del calibro di Marilyn Manson per quanto riguarda Jordi White e The Queen of the Stone Age per quanto riguarda Chris Gross, per dire, diciamo, le band più famose della loro esperienza. Ancora rock and roll, loro si chiamano Local H, un altro duo. Joe Daniel e Scott Lucas. ...1996 e si sente l'influenza del grunge, almeno nelle timbriche e delle tonalità proprie degli anni 90, Local H da capo. E qui dobbiamo fare un ringraziamento a Arbanana, che è venuto in possesso di questo lavoro suonato dalle Motorama. No Bass Fidelity si chiama. E loro sono tre pischelle non proprio raccomandabili. Che si avvalgono peraltro nella registrazione dell'ausilio di Bugo. Insomma. E si sente nella rumorosità. Nel suono pieno di grumi, difficile da digerire. Drive Mary Home Baby si chiama questa sesta traccia, che come di consueto andiamo a ascoltare da capo. Ed eccoci quindi, pronto, Chris. Oh, che urlava prima. Come? Chi era che urlava? La canzone? Ah, strillavano, sì, erano quattro pischelle che non ti consiglio di incontrare da solo per strada, insomma. Non è il caso. Loro si chiamano Motorama. No, lascia perdere. Motorama si chiama No Bass Fidelity, questo lavoro. Allora Chris, Placcaggio Hardcore, ascoltatore, abbiamo saputo, abbiamo scoperto con piacere della trasmissione qui a Radio Onda Rossa, che in qualche maniera partecipate anche, insomma, così con al delirio, insomma. Al delirio. Quello sempre. delirio satanico, però pare che siate stati colpiti in particolare da così da un brano che abbiamo mandato così all'improvviso, senza preavviso, dal contributo, insomma, dalla corrispondenza, forse no che no, ti riferivi? No. Mi riferivo a non so, forse se proprio ah, lui. È vero, mi vero. Riferivo a Mugo Nasale. Ah, c'ho la cassetta originale, cazzo, Avanti Sound Machine. Erano 20 anni. Sì, c'ho pure io la cassetta, lo sai? Proprio piratata come di dovere. No, originale. Ah, originale, no, io piratata come di dovere, insomma, come bisognava fare in quegli anni. Vabbè. No, non ricordo dove l'ho presa, tipo a qualche giornale che vendevano cassette in corrispondenza, magari a 2000 lire, però sono ancora originale, ogni tanto la sento. Bene. Allora, Placcaggio al Corra, ci vuoi un po' raccontare la vostra vicenda? Da appunto abbiamo introdotto qualche nota così biografica, ma di poco conto. Invece presentatevi un po' voi, dai. Che vuoi sapere? Che ne so, domande, cioè, dai, sei la rispondo. Cioè tu sei la band, no? Di solito almeno funziona così nei radio, quelle che. Però da noi sì, no, sì, in effetti. La bio di Rio, insomma, no? Chi siete? Placcaggio al Corra, quando nascete, da dove venite e dove arrivate? Allora, tutti di Colleferro, nella profonda Burinia. Poi suoniamo da circa 10 anni, quindi dalla primavera del 2004. A nome Placcaggio al Corra, poi insomma sì, vogliamo ricordare. Siamo sempre stati in 3 persone, cioè fino adesso, sempre la solita, diciamo, line-up. Vabbè, durante gli anni 80 avete contribuito alla creazione del black metal, però insomma questo è un po' un segreto. No, purtroppo abbiamo dato solo un piccolo contributo, però siamo cresciuti col black metal, fortunatamente. Compriamo i dischi. Rinnegato. Contribuiamo i dischi. Ok, rinnegato, diciamo, il modo di suonare il black metal, però è rimasta qualche nota. Ma neanche tanto, nemmeno. Cioè, no, i Placcaggio al Corra sono fieri, insomma, di sventolare la bandiera di Santa. Sì, no, dicevo, è rimasto sicuramente un segno distintivo, ecco, di quel passato. E poi che possiamo dire? Siamo, vabbè, io sono il basso, Chris Gabbatte la chitarra e la voce, e Lord Cecirot la batteria. Come si esplicita, senti che parola che ho trovato, si esplicita la vostra produzione al dizionario. Sì, no, vabbè, poi casomai si traduciamo come si esplicita la vostra produzione, cioè che fate? Dischi, filmati su YouTube, partecipazione in interviste radiofoniche, insomma, che fate? Allora, partecipazioni radiofoniche, quelle poche, perché stiamo sempre impicciati più che altro col lavoro. Okay. Poi che facciamo? Quindi un cazzo, in generale non facciamo niente. Dai, un disco abbiamo l'avete stampato, fatto? Non so, 3 dischi, prima un demo, no, aspetta, mi sto rincoglionendo. Un demo, 3 dischi e adesso 2 settimane fa Roberto Del Nation ci ha fatto uscire un 7 pollici, uno split con gli ultimi, che poi è una gag, ci facciamo le cover a vicenda. Ok. E l'album prima si chiama Proto, è uscito sia in vinile colorato limitato, blu, trasparente e poi nero. Quello blu e quello trasparente non ci stanno più, per fortuna. Sono una rottura dei coglioni. Per beccare la traccia, penso, col vinile trasparente è proprio un incitamento alla bestemmia. Esatto, ed è finito fortunatamente. 100 copie trasparenti e 100 blu. Sì, e gli altri 2 CD, da quello che sappiamo, sono finiti. Cioè, almeno noi a casa non ce l'abbiamo. Quindi a manetta, insomma. Area di distribuzione di questo, cioè dove sapete che vengono venduti? Venduti almeno per quanto riguarda la parte, diciamo, autoprodotta, ve li vendete da soli, insomma, quindi con. Guarda, la maggior parte delle cose facciamo da soli, se no distro. Che ne so, c'è stato, come dicevo, Roberto Del Nation. Alcune cose sono stati, alcuni i CD vecchi, pure l'ultimo sono stati coprodotti, pure da Scarfo Life. Ma poi non giro tramite distro, oppure facciamo quasi la maggior parte, facciamo tutto direttamente noi. oppure a quei pochi concerti, oppure online. Fuori, per fortuna, pure in Giappone. Ah, bene, bene. In America, però, roba di poco, Stellari. Vabbè, qualche però ci stanno i matti, per forse fortuna. Bestemmie, gli inni al black metal. Ok. Ci stanno i matti, per fortuna, in tutto il mondo, e quindi ci si riconosce. Sì, sì, fortunatamente sì. Giappone, Russia, America, Australia, Canada, ci è arrivato qualcosa. Bravo. Questa roba magari la mandiamo, diciamo, in maniera digitale, così facciamo prima. Ok. Non costa più la spedizione che il disco. Benissimo. E invece attività live? Dal vivo sarebbe live. Sì, sì, a quello ci arrivo, cazzo. No, no, vabbè, no. Però magari mi ero confuso io. Che vuoi sapere? No, dica a te, che sta a suonare? C'è sta qualche concertino, vabbè. Magari, sì. tra qualche Dopodomani. Giorno. Torniamo al Volturno a Ceccio proprio, insomma. Fatalità. Fatalità. E un posto vicino Terni. Quindi al Volturno Cuvano. Torniamo io con lui, che penso, cioè, spero che tutti conoscano, gruppo anarcho-punk pure famoso. Vabbè, anni 80, scozzese, con gli ultimi amici nostri che sono della Tuscia, e suoniamo noi. Venerdì. Invece sabato prossimo andiamo a Vetralla, che sta vicino a Viterbo, circa 10 km da Viterbo. Okay. Si chiama la cantina del Goio, Goio, non so, un posto più brasiliano. E suoniamo con i Fauli, che sono sempre della Tuscia, vabbè, gli Out Out di Roma e i Fan di Roma. Vabbè, un altro concertino di questi. Beh, quello sì, più che altro per, diciamo, per i gruppi storici. Di questi punk. Specialmente per gli Out Out. Ascolta. Che si sono riformati, si riformano e fanno qualche pezzo. Poi l'altro concerto vero, sinceramente, non lo so quando lo faranno. Vabbè, ce lo farete sapere, insomma. E... sì, penso loro lo fanno sapere. Questa è una piccola riunione, fanno poche canzoni da quello che so. Bene, senti, è il posto dove consigliate che veni. No, dico il posto il posto dove vi piace più suonare, dove rendete più, Colleferro? No, non suoniamo mai a Colleferro, abbiamo suonato pochissime volte qua intorno, non c'è un cazzo. Ma senti, ma il centro sociale che c'era, come si chiamava? La casa cantoniera? La casa l'hanno sgombrata dopo un mese. Mm. Dopo un mese, quindi niente. L'hanno murata, ci hanno lasciato la roba dentro. Sì, vabbè, sì, è tutta gente che conosciamo, quasi tutti amici. Vabbè, era normale, l'hanno sgombrata subito, hanno murato tutto, e la roba è rimasta dentro. Ora non lo so se ci stanno i tossici, qualcuno, sinceramente non lo so, però dopo un mese era tutto finito. E quindi è stato fatto un benefit a Marino, a Lipo. Sì. C'è scappata qualche denuncia. Ascolta un attimo, ma vogliamo mandare, perché mo abbiamo parlato, invece mi sa che la cosa meglio è quando gli ascoltatori della radio vi sentono. Noi abbiamo qua il disco, l'autoprodotto del 2012, Packaggio Hardcore. Ci dici la traccia, la cosa che mandiamo in onda mentre... Dai, io direi anche Madonna League. Che sarebbe... aspetta, tu sa? Vada a prodo, parli. Ci sta... AML. Aspetta che chiamiamo qui il fantasma, che è pratico. 13 AML. Ah sì, no, perché c'è l'acronimo. Va bene, allora sì, l'ultima c'è quella prima attaccata, è una cover dei Bathory. Ok. Sì, il fantasma, vedi, si sta sbracciando. Vabbè, sei un metallaro, deve essere, so, sì, sicuramente conosci. È metallaro, ai noi è metallaro. Va bene, AML, Placcaggio Hardcore, dai, la Radio Onda Rossa. Come un virus che si insedia, è il ricatto che perdura, un raggiro permanente di vangeli per manomettere, di credenze derivative, surrogato di un passato sepolto da cui, tumulato la subentra della gravità vergine. Outreach and it's a column. e rieccoci. Sì, è già finita. Non ci sto, non io col sta. Microfono, ecco. Sì, sì, sì. Dicevo, mentre vanno in onda i fischi, però ricordiamo Radio Onda Rossa con Chris de Parcaggio Hardcore. Fantasma, cosa volevi chiedere sulla Valle del Sacco? Oppure vai. E niente, no, ci chiedevamo, insomma, appunto. Placcaggio al corda Colleferro, ci viene in mente, insomma, la situazione disastrata ambientale che c'è a Colleferro e dintorni, quindi se ci vuoi c'è il grande fiume Sacco che arriva quasi, diciamo, a Frosinone, che dopo c'è il fiume Cosa, fiume Saponato. La Valle del Sacco prende parecchio, prende, ma il Colleferro prende molto, limitrofi, e arriva fino quasi in Ciociaria, cioè la parte dei Frosinone, Anagni. Quindi se non mi sbaglio, se non dico cazzate. E diciamo che per anni, ma si parla di tanti anni e decenni, qui c'era prima la BPD e c'erano altre industrie, che Colleferro è solo industriale, se no manco ci sarebbe. Per anni hanno sversato roba chimica, metalli pesanti, detriti, qualsiasi cosa, sia sotto suolo, che ancora ci sta, che c'è stato pure uno scandalo penso l'anno scorso. E vabbè, sono dentro al fiume Sacco, che poi diciamo che è un fiume piccolo piccolo. C'è gente che ancora ci pesca, tranquillamente si mangia pure i pesci. Però dicevi, ogni tanto la vedi la gente a pescare. Dico, però poi dopo li riconosci perché gli cresce normalmente un terzo braccio, questi qui che ci hanno quattro occhi, questi maculati blu. Beh, ci stanno i pesci a tre occhi, lo stringfield. Dico, non è molto salutare mangiare il pesce. Ma io ci facevo pure il bagno 50 anni fa, Cioè io lo farei sinceramente, però l'acqua è bassa. Se poi tu fai. La cosa simpatica è quando vieni a Colleferro, diciamo che sta subito il fiume, ogni tanto allaga tutto quanto, quando piove un po', fa tipo il Nilo. Ci trovi i televisori, i copertoni. Prima era usanza lanciare la roba quando era pischello, insomma, ci passavi sopra e lanciavi uno stereo o qualsiasi cosa. No, quindi piccoli e grandi, piccoli e grandi inquinamenti, insomma, c'era chi inquinava proprio su scala industriale e chi invece così si cimentava. Sì, uno cerca di contribuire, capito? Alla crescita della civiltà. Alla crescita della società. Io mi ricordo, siccome c'ho. Sì, ci si trova di tutto, ci si trova. Siccome una grande morialice, animali, pecore, mucche, quel che sia. È tutto inquinato in teoria. No, ma mi cioè, veramente anche in pratica è tutto inquinato. No, siccome che c'ho delle origini di Colleferro io, questa è una. Vabbè. Addirittura. Questa è una chicca. E no, ricordo, insomma, Colleferro coperta da una coltre grigiastra. Ah sì, c'è stato smog fotochimico, c'è stato. Sì, no. La nebbia pure. Vabbè, Colleferro comunque era uno dei poli industriali che è provincia di Roma o già è Roma. Diciamo che confine con sì, è Roma Frosinone, sulla Casilina, è provincia di Roma e dopo un po' viene c'è la provincia di Frosinone. Sì. Che sarebbe Anagni il primo paese, circa 8 chilometri da qui. Comunque siamo uno dei poli industriali nati negli anni 70, 60, 1900 comunque. Anche i rinascimenti che c'ho quasi 100 anni. Certo. Ma Colleferro è stata fondata intorno alla fabbrica, alla BPD. Certo. Cioè il blocco porco Dio, la canzone nostra, che sta a fronte del Sacco, era una citazione della BPD, che era la fabbrica, che all'epoca facevano anche munizioni, ci sono addirittura i sottopassaggi, fino a qualche anno fa sulle cartine non stava segnato perché era un punto da bombardare durante la guerra. Va bene, però guarda, c'era il cemento, è famoso per il cemento, c'è l'ira cementi, cioè. Certo. Chris, c'hai cioè assolutamente. No, veramente tutte le fabbriche, è nata per le fabbriche, altrimenti non ci sarebbe. Non c'ha storia Colleferro. Sì, probabilmente è uno di quegli agglomerati industriali, appunto, che. Esattamente, infatti al centro di Colleferro stanno lì dal cementi, c'era l'ex BPD. Mm-hmm. Vabbè, un sacco di fabbriche comunque ci stanno. Immagino che, insomma, crescendo in questa cornice. Non potevate che suonare così. Nel senso, tutti lavoravano dentro le fabbriche. Certo, certo. No, però insomma, è un po' difficile lavorare, però prima sì. A parte, insomma, la fortuna, sfortuna di lavorare in questi posti, credo che crescere insomma in questa cornice appunto ti fa nascere proprio spontaneamente scuole, un... Per esempio, ci sono certe scuole, c'erano le elementari, le medie, che prima c'erano solo quelle lì, e anche delle superiori, tipo l'istituto professionale, che si affaccia davanti alle fabbriche, cioè a pochi metri. Insomma, si cresce accrescendo dissenso, insomma, per quello che c'è intorno. Qualcuno diventa metallaro da ragazzino, sì, capito? Ti senti, vado. E poi perché probabilmente, come dici te, gli istituti professionali ti insegnavano ad andare a lavorare in fabbrica. Sì, c'era, avevi la vita segnata. Se non era la scuola, era l'istituto addestramento lavoro. Facevi 2 anni, facevi il tornista, insomma, elettricista. Sì, i professionali fornavano direttamente gente che andava al lavoro. L'istituto tecnico pure. Allora, dicevamo, ci hai proprio convinto. Vi invitiamo, forse mercoledì prossimo ce la fate. Noi purtroppo trasmettiamo dalle 10:30 in poi. Quindi se riuscite, con molto piacere, anche perché questa... diciamo questa sapienza che c'hai, molto così, molto, però sono cose che magari appunto vanno dette un sacco di cazzate, in teoria è tutto vero, no sì, vabbè, ma è un po' lo stile nostro cazzarare in mezzo a poi è un po' gag, è un po' gag, però in mezzo poi ci metti una verità che sì, alle volte è amara, alle volte profonda. Sì. Va bene, allora Chris, per ora ti lasciamo. Senti, che cosa mandiamo? Un'altra cosa vuoi che mandiamo nel lasciarti? Sì, vediamo il valico. Il valico che è la numero 5. Sì, sì, adesso lo mettiamo, numero 5. Eccola qua, il valico. Ciao Chris, allora ci risentiamo. Ci vediamo prossimamente. Bella, okay. Bella Chris. Ciao ragazzi. Ciao, grazie. Ciao. Back. Can you hear me? Meschietti! Did you hear the howling from the backside of the street? We're lost and terrifying and demons in fresh meat. The secret place where dumb stones, you know it's common thing. Near about all the wicked days where love was burning. Quindi ve l'avevamo annunciato che stasera menavamo dopo il placcaggio hardcore e la loro telefonata in diretta, aspettando che ci vengano a trovare qui negli studi della radio dalla Slovenia, Clockwork Psycho. Ve li ricordate senz'altro che suonarono in un concerto in sottoscrizione degli arrestati, dei condannati per i fatti di Genova 2001 al Forte Prenestino, aprendo niente poco di meno che ho detto, è niente poco di meno che anche Pippo Baudo ai Coffin Cats. Dalla Slovenia ci spostiamo negli States, suoni sporchi, Joe Spencer Blues Explosion. You make me joke. Can't stop. Get the fake that Big Mac weeks. Wait for night and go outside. Eccola, Wait for night and go outside. Quando la finiscono Clockwork Psycho. Joe Spencer Blues Explosion. A pair of steps. anche sguaiati, sguaiati. Non gli è mai andato il risonaggio Spencer, in verità. Ed è per questo che ci piace. Non mi posso fermare, can't stop. Questa è una vecchia ballata, di quelle che facevano trillare lo 06491750 di Radio Onda Rossa. Elastica, alzandosi, waking up. Tutti quelle e quelle che ascoltavano 20 sorry, Next Time. C'avete i capelli bianchi, Emmo? Dun, dun, dun. тебе знають за парк. Лісная школа, второго сентября, почти что как зоопарк. Лесная школа, 17 сентября, все тот же самый зоопарк. Там свежий воздух, светло и зелено. Allora, mo fantasma mi deve aiutare, dai. Ci sta provando, però con scarsi, vabbè, dai, studiamo, magari studieremo più in là. Sì. Sta facendo il fantasma adesso, malgrado appunto la sua conoscenza millenaria dei 36.000 anni che si porta sulle spalle, non ha mai imparato il russo e l'alfabeto cirillico. Comunque, loro dovrebbero chiamarsi più o meno Olicevo, qualcosa del genere, insomma, la pronuncia. Qui abbiamo ascoltato forse Scuola Forestale. Vogliamo dire due note su questo dischetto, da dove viene? E comunque se la cantano pure in inglese. E questo viene da San Pietroburgo. Questo, la vecchia Leningrado. Questa è dalla vecchia Leningrado. Niente, io ero in cerca di geek metal, oppure stoner, psichedelia, insomma le cose che insomma che sappiamo, insomma le sostanze di cui ti nutri. Certo. Però niente, sono entrato in questo posto a San Pietroburgo che si chiama Negozio di dischi, sì. Bello grosso, Rock Castle o qualcosa del genere. E niente, vabbè, ho rimorchiato lo spacciatore di CD che stava lì. Sì. Becco questo, vado al bancone e faccio: senti, ma roba psichedelica russa, stoner, doom. Questo mi guarda, cioè tipo come se parlassi, se fossi un marziano, sì, diciamo. Ma, che ma era un negozio prettamente di musica metal, però lui non ne sapeva nulla. E quindi gli ho detto: vabbè, ma cioè, un gruppo che mi consiglia. Però l'hai trovata un po'. Cioè, quello che c'era di musica metal, mi dicevi che l'hai trovata un po' di maniera, un po'. Sì. Allora, il metal che va per la ammiccante ai generi occidentali, ormai pure un po' consumati. Sì, ma era un po' la musica di. La musica alla moda metal che poteva andare in giro 20 anni fa. Quella che non mandiamo noi. Sì, quella che non mandiamo noi, quella che non ascoltavo all'epoca, però va per la maggiore. Va per la maggiore rustica. Un po' coatto. Metal molto coatto, melodico, smelenzo, cose così. Insopportabile. E quindi trovandomi in quella. In quella situazione, senti, ma il gruppo preferito tuo. E mi ha tirato fuori questo. Dice: ma sei sicuro? Quindi a lui non piaceva quel metal. No, assolutamente. Infatti, da questa roba che invece è assolutamente eclettica, a me ricorda, dopo un paio di ascolti, così detta. Innanzitutto non ricorda niente, perché loro effettivamente Olic Bevo o qualcosa del genere. Oli dovrebbe essere proprio nel senso di. Sacro, di... Sì. A parte che il cirillico, quello che tu leggi, sì, ti sembra sì. qualcosa. Ma no, è esattamente il contrario. E niente, insomma, non lo so. Soprattutto, diciamo così, come estro, così gli Offspring ci potrebbero stare. Però pure Chumbawamba, però pure, non lo so, insomma, quindi, poi, sicuramente un tratto distintivo loro. Ma poi ascoltando il disco, magari nelle prossime trasmissioni metteremo altre cose. Sì. Ogni pezzo è una cosa eclettici. A parte, insomma. Assolutamente sì. Va bene, quindi archiviamo questo pezzetto e ce ne andiamo invece in Illinois, Minnesota, insomma quella roba lì delle grandi pianure centrali americane. Tutto molto più semplice. Proprio guerra fredda, eh? Sì, guerra. No, vabbè, ma cioè, ormai la guerra fredda non c'è più, i stronzi stanno dappertutto. Assolutamente appurato. Quindi, niente, della Counters, dai. Come back. in the videos. Well, I got love on my mind, and I've been taking time doing it all alone. Oh, oh, if we're giving a love, I'll ignore all the signs and keep driving home. Yeah, I got love on my mind, and I've been taking time doing it all alone. Oh, oh, if we're giving a love, I'll ignore all the signs and keep driving home. Oh, yeah. All right. E vedi che poi girando alla fine si va a finire sempre nei paesi scandinavi o comunque, se non proprio in quelli più frequentati, anche la Danimarca comunque è un posto di quelli dove di tanto in tanto mandiamo. Delle importanti band o degli importanti artisti, The Blue One uno per tutti, li ascoltavamo come la miglior band di British pop, però danese. Questi è Agnes Obel, nata il 29 ottobre del 1980, a Gentofte, appunto, in Danimarca. E ogni tanto vi ci fermiamo pure a 25 o'clock. Mentre ci avviciniamo ormai, o siamo entrati già nel vivo delle iniziative di ottobre, che culmineranno poi nei cortei del 18 e del 19 del mese del sindacalismo di base delle insorgenze sociali. Così vi diamo alcune cautele da utilizzare, tratte da un opuscolo che trovate facilmente in rete, edito dalla rete Evasioni. Quindi se vi trovate anche appunto nei prossimi iniziative di movimento, ma comunque è una cosa che vale come indicazione generale in tutte le situazioni di piazza, come si suol dire. Se vi trovate appunto in un corteo più o meno teso, diciamo, cercate di non farlo mai da soli o da sole. Mettetevi d'accordo per andare e tornare insieme con un amico o un'amica e parlate appunto e comunicate quello che farete se le situazioni dovessero diventare tese. Stabilite un punto d'incontro in cui ritrovarvi nel caso che vi perdiate, e per questo è importante conoscere il percorso del corteo, specialmente se non siete della città dove appunto il corteo si svolge. Le forze dell'ordine tendono a prendere persone isolate, lontane dal gruppo, quindi più vulnerabili, in luoghi e momenti in cui non ci sono o ce ne sono pochi possibili testimoni dei loro abusi. Ciò che gli interessa in caso di avvenute tensioni o scontri, le forze dell'ordine, è di avere qualcuno da sbattere in prima pagina e da usare come esempio per far sentire a tutti il peso della repressione. I fermi e gli arresti vengono soprattutto nell'indietreggiamento durante una carica, sul finire di un corteo o di un presidio, quando in piazza rimangono poche persone e durante il rientro a casa dei manifestanti. Le grandi stazioni ferroviarie, gli snodi del trasporto pubblico vengono sorvegliati anche per molte ore dopo la fine di un corteo. Polizia per eventuali riconoscimenti, interrogatori o arresti di presunti manifestanti. Nonostante questo, dipende sempre dall'ospedale o dal personale che si incontra. E ci siamo persi un pezzo poi nella lettura. Quindi se vi capita, insomma, di trovarvi in ospedale per essere medicati, oppure perché appunto dovete seguire qualcuno che magari è rimasto ferito cadendo, eccetera, se potete, meglio sempre trovare un ospedale distante e dare una spiegazione plausibile che non faccia riferimento alla manifestazione. Una volta effettuato un arresto, la polizia non ritratta mai, non ammetterebbe mai di aver commesso un errore. Necessita solo di un certo numero di arrestati e arrestate, indipendentemente da chi sono o e cosa hanno fatto. Per far partire un processo bastano delle testimonianze di appartenenti alle forze dell'ordine e non faticano a trovarne. Non tutti quelli vestiti in jeans e maglietta sono amici. Gli agenti in borghese stanno all'interno delle manifestazioni camuffati da manifestanti, da turisti o semplici passanti. Guarda sempre chi hai intorno. Cortei e presidi sono pieni di occhi indiscreti e pochi amici. Ricorda che le forze dell'ordine e i giornalisti riprendono e fotografano in ogni momento per poi identificare le persone attraverso l'analisi. Dei vari firmati prima e durante e dopo un corteo. Arriviamo al capitolo dopo appunto il buon uso delle precauzioni da utilizzare appunto durante le situazioni in piazza. Un'altra abitudine appunto che si ha è proprio quella delle fotografie e dei filmati. Quindi se fate foto o video di situazioni legalmente pericolose, queste hanno permesso di scagionare persone sotto processo, ma hanno anche fatto sì che altri li subissero. Partecipare ad una manifestazione utilizzando strumenti audio-video è una questione delicata. Hai la responsabilità del materiale che stai producendo ed è importante che ti comporti di conseguenza. Non riprendere mai chi non vuole essere ripreso o ripresa. Nel dubbio, prima domanda. Rivolgere l'obiettivo verso le guardie può risultare molto più utile. Mentre riprendi, fatti guardare le spalle da qualcuno o qualcuna. Alle forze dell'ordine non piace che siano altre a riprendere loro. Secondo la legge, le guardie non potrebbero impedirti con la forza di riprendere, tuttavia sarà molto probabile che lo faranno, soprattutto se stai riprendendo un abuso di potere. In queste circostanze è molto importante riprenderle per proteggere le persone coinvolte. Un'altra precauzione è quella che, se sai di avere immagini sensibili, sfila la cassetta o la carta di memoria e assicurati che le forze dell'ordine non te la sottraggono. Porta sempre con te qualche cassetta o scheda o batteria in più. Organizzati perché ci siano delle persone che possano portare in luogo sicuro il materiale che hai registrato. Le guardie e la polizia vedranno la macchina fotografica da presa come una minaccia. Ricorda che il materiale che raccogli potrà essere sequestrato. Elimina subito, non aspettare, eventuali dettagli che possano mettere nei guai altre persone. Prima di pubblicare, edita il materiale coprendo ogni segno di riconoscimento, come zaini, volti, abiti con loghi, scritte, disegni. Insomma, cose facilmente riconoscibili, tatuaggi, cicatrici. I tuoi video potranno essere utilizzati per identificare chi che sia durante le manifestazioni. Condividi il tuo materiale su piattaforme libere dove è più difficile rintracciarti. Prima di utilizzare qualunque piattaforma, leggi sempre le regole a cui ti sottopongono. Più o meno le stesse regole, appunto, per i dispositivi audiovisivi valgono anche per i telefonini che ci sono ora, i smartphone, eccetera, che dispongono appunto di telecamera, di obiettivo. permettono di fare le stesse cose che una macchina fotografica o una telecamera. Una provocazione in più che quando avete un telefono appresso dovete sempre considerare che potete essere rintracciati in qualsiasi momento, sia che telefoniate sia appunto che vi muovete semplicemente con il telefono in tasca. L'unica maniera per così per avere la certezza di non essere localizzati come posizione è quella di staccare la batteria del cellulare. Mi dispiace di non essere riusciti a leggere per motivi tecnici, diciamo. Per errore appunto che presentava in realtà il testo quando scaricato qui sul nostro PC. Però andate su il sito. www.inventati.org/rete_evasioni e troverete questo così vademecum, questo piccolo opuscolo che può suggerire tanti consigli per chi scende in piazza, sia in situazioni tra virgolette tranquille, sia qualora le situazioni per colpa delle forze della repressione dovessero degenerare. E con questo noi lasciamo microfono e mixer al fantasma. E lo facciamo con l'ultimo disco uscito nel 2013 per i Melvins. Si chiama Melvin Tribute 2. È una serie di cover che vanno a eseguire. Questo appunto perché poi a un certo punto, quando si suona da 35 anni, insomma dalla metà degli anni 80, trent'anni dai, alla fine ci si tolgono alcuni sfizi e i Melvins lo rifanno da adulti suonando appunto cover. In particolare qui ne ascolteremo un paio, così lasciamo il tempo e il modo al fantasma di prendere possesso qua degli strumenti. Una volta ci sentiamo pure una chicca che è una cover dei Queen da sbellicarsi dalle risate. Quindi cover dei Scientists, Set It on Fire e poi Station to Station di David Bowie, The Melvins alla loro maniera. We'll be right back. 23:52 minuti primi in questo momento. 87.9 MHz di frequenza, questa è Radio Onda Rossa. E siete all'ascolto di 25 O'Clock. Mentre qui versiamo letteralmente il sangue. Non è una battuta, cioè versiamo proprio il sangue. Cercando di aprire la birra. Oh, noi continuiamo carichi a pallettoni, ricordando la serata di venerdì al Volturno Occupato. Concerto degli Oi Polloi, Placcaggi Hardcore e Gli Ultimi. E ci ascoltiamo proprio un pezzo degli Oi Polloi, che è Bash the Fash. Neo-Nazis take a seat on a London council. The extreme right-wing racist British National Party has scored its first political success in Britain. In a council by-election last night, it took the Millwall ward of Tower Hamlets in London's East End. The area has been the scene of a string of vicious race attacks. A week ago, 17-year-old Asian Qadis Ali was beaten senseless by a white gang and left for dead. He's still in a hospital with a coma. Anybody do about it? Fight them, basically. But how do you mean fight them? We'd say that the ideas that they put forward outside football grounds on working class estates have to be combated politically, but also that they've got a physical agenda and that has to be met physically as well. People have to defend themselves against the fascists. They can't just turn the other cheek. Let's go! quindi ricordiamo ancora Oi Polloi, venerdì 11 ottobre al Volturno occupato, serata a sostegno delle spese legali per il vergognoso processo contro i compagni e le compagne di Magliana. A 4 anni dagli arresti, la lotta per la casa non si ferma. E insieme agli Oi Polloi, i Placcaggi Hardcore, ci sono anche gli ultimi. Ce li ascoltiamo con la loro versione del canto del carcerato. Il cellulare a Facebook. Se non avresti mai il tempo per lo tuo guarda. Vista la risposta. Sono carcerato per capriccio. Per me portavo aperta con te laccio. Scontrai la morte, presa mi rotta vicio. Fermo, sta fermo là. Dopo gli ultimi ci andiamo a spostare in Inghilterra. È una produzione Risable Records. Lee Dorian, ricordiamolo, dei Cathedral. Loro sono Admiral Sir Cloudsley Showell. Il loro disco del 2012. Don't Hear It, Fear It. E questa è la prima traccia, Mark of the Beast. We'll be right back.

momento riempiamo il pezzo dei Blood Ceremony perché abbiamo una telefonata qui in... un ascoltatore che ormai è diventato affezionato, credo. Sì, no, no, mi ha preso col fiatone. Lo so, però insomma, quando pronto? Pronto? Sì, sì. Mi sente? Sì, sì, sì, ci siamo. Comandi? Giulio. Ciao, sono Giulio, ho chiamato settimana scorsa. Sì, sì, no, no, ci ricordiamo. Affezionato. Ci ricordiamo, sì, no, sì. No, no. Si ricorda tutta Roma. Beh, la Madonna, Roma è la città strana. Senti, vien via, volevo chiedere scusa per lo sfogo. Settimana scorsa. No, ma cioè, no, va bene. Benissimo. Non ti preoccupare, insomma. Si vede che... No, è che probabilmente voi del nord avete un linguaggio rispetto, che ne so, alle tematiche dell'omofobia, così, per cui ci siamo dovuti dissociare semplicemente perché... Dell'uomo che? No, vabbè. Vabbè, senti, guarda, chiedo scusa, era lo sfogo di un bauscia, capito? Te puoi dire così, no? Ma, guarda, io sono deluso. Deluso? Io ti richiamo, guarda, perché... Dal mondo o da noi? No, ma non da te, ma figurati. Cioè io mi sento l'ultimo compagno sulla faccia della terra, capito? Cioè, ma se... Ascoltami, sono io che ce l'ho duro, mica la Lega, ragazzi. Buon per te, però. Anche questo non è proprio... Vabbè, però anche noi, al di là della... cioè, come facciamo a conciliare la cosa? Pure io mi sento l'ultimo compagno della faccia della terra. Vabbè, raga, che vi devo dire? Cioè, io mi sento l'ultimo, no, perché anche voi no. Cioè, bella roba, no? La trasmissione qui è una bella roba. Cioè, Radio 25 ore, com'è che è? è quella. Vai, è quella. Ma ragazzi, state lì, ci servi la musica di Satana e ubriacarvi col cinar, col punte mes, con cosa fate voi anche, no? Con la mano medicinale Giuliani pure. Ma sì, quello che vuoi, cioè. Ci abbiamo la digestione lenta. Ma siamo accanto a tu, la storia del mago, ragazzi, veramente. Cioè, noi cantiamo la storia del mago, tutti lì, no? Cioè, parli troppo in dialetto, però non abbiamo percepito, scandisci le parole. Ma guarda, non posso dire in altre parole, meglio che lo dici in quelle che hai detto. Ma vogliamo fare la rivoluzione col consenso dei carabinieri, è questo il punto, capito? Cioè, qui la gente vuole imbracciare il fucile, voi imbracciate la chitarrina, capito? La chitarrina distorta, capito? E vabbè, cioè, pur sempre un'arma. Siamo venuti giù con la luna piena, ragazzi, davvero, cioè, sotto al Parlamento, no, dimmi, sotto al Parlamento che fai? Gli canti la canzoncina? cioè, veramente. No, vabbè... Che cioè... poi io le cose, ascolta me, cioè, io le cose le dico per voi, che noi le abbiamo fatte, ragazzi, noi le abbiamo fatte, io ho lavorato 40 anni in Menarina Breda, cioè, ma dai... Beh, vabbè. Ma lo dico per voi, ma lo sapete che c'è gente che campa una famiglia con meno di 3.000 euro al mese, cioè, capito, noi siamo qui a ascoltare ma meno quanto? Infatti che dici? No, dico quantifica, meno qua, cioè uno può pure dire, uno campa una famiglia con meno di 20.000 euro al mese, no? Ah sì, ma non lo però so, meno ma quanto? Sono qui a fare meno parecchio. No, sto qui a fare. E non è una frase, cioè meno parecchio non è io meno parecchio. Ascolta, perché ragazzi, voi siete bravi, per carità, siete molto bravi, complimenti. Bella roba, cioè nei tempi di Carlo Cudega che dice tanta roba, ragazzi, nei tempi di Carlo Cudega, capito? Cioè siamo lì, la rivoluzione, no perché tu, perché io, cioè, che l'erba cattiva, ragazzi, non muore mai, vabbè che voi ve la fumate. No, che io sento gli odori per telefono, è un dono il mio. Questo non lo accettiamo, insomma. No, ma dissentiamo da questa cosa. Ma via, ma è una battuta, ma si fa per ridere, oh, cioè. Dai, che stasera sono buono, cioè. No, infatti, è vero. Dobbiamo riconoscere che la telefonata di stasera Giulio è molto delicato. Veramente una. Bravo. Cioè, riflessivo, pacato. Ma riflessivo, sì, perché poi rifletti e dici, ma figa, ragazzi, ma che cazzo me la fa fare pure a me? Cioè, ma qui stiamo ungendo l'orso con la paletta, ragazzi. Tanto, che cazzo me ne fai? Io ho lavorato 40 anni in Melania di Breda. Cioè, qui volete fare i figli dei fiori, no? Volete fare i figli dei fiori? Siamo nell'orto dei Getsemani, mica la collina dei ciliegi, capito? Cioè, voi state lì, capito? Cioè, no, è bella roba. Impassibili, dici? Impassibili, impossibili siete. Dire no, non lo so, ma ragazzi, ma veramente, io ho fatto la siderurgica, ma che cazzo fate? Cioè, voi meno con le magliette dei Manoval, non avete le magliette dei Manoval e poi state che mano in mano, cioè, capito, con la chitarrina, è una cosa da matti, purtroppo, ragazzi. Lo so, ci siamo sbagliati fin da quando eravamo piccoli. Una delusione continua qua, tanti quanti fanno flop. Ma non è la delusione la mia, perché a me che non mi frega cazzo, io vado a Simeone, io torno a Simeone, insomma, l'ho vista Lago, capito, uno dice 5 stelle, io sono 6 di stelle, capito? Cioè, che cazzo me frega a me? Cioè, quella è roba buona per i calli, ragazzi, cioè, davvero, ma dai. Vabbè, senti, va bene, e a proposito di 3.000, meno di 3.000 euro al mese, aspettiamo, diciamo, la quantifica, perché comunque... La quantifica, nel senso che il di più potrebbe andare in sottoscrizione alla radio per fare le chitarrine. Se mai avanza qualcosa. Ragazzi, oggi la lotta di classe qui la fanno le assicurazioni, cioè col bonus malus, capito? Capito come funziona? Cioè, pensi a parlare, no? Voi state lì, ascoltate la Metallica, e intanto il mondo va, no? Dove deve andare, è una roba anche questa. Questa è roba buona per i calli, ragazzi, cioè. Sai che mi ricordate? Sì, sentiamo. Posso dire? Sì, cioè, no. Ricordate il Fumagalli? Mi ricordate il Fumagalli che mi diceva senti di Pù, no? Perché il Pù. E poi l'hanno fatto commendatore. Sì, ricordo il Fumagalli, sì, effettivamente. Beh, che chissà fantasma. Se si fumava i galli. Sai, sì, fantasma, sì, perché sì. Perché no, mi dicono che c'è Fio Fantasma. Presenza. No, ovviamente, io mi chiamo Giulio, cioè, come ti chiami te, perché non è. Fantasma. Proprio fantasma. All'anagrafe. Non ci stanno versi. Ho capito il fantasma, ma io torno a Sirmione se le cose stanno così, ragazzi. Sì. Io sto parlando con il signor Fandiasma, fantasma, fandango. Sì. Dai ragazzi, sì, è una cosa. Sì, una cosa. La chiamavano un pochino. È una roba strana, cioè. Vabbè, dai, oh Giulio, sempre prezioso, veramente. Grazie Giulio. Perle di saggezza a non finire. Ma siete voi, cioè non sono io, siete sì, voi. Sì, no, no. Cioè, io. Ma non lo so, la lotta di classe la facevo in classe quinta. All'elementare, insomma. In classe, certo. Cioè, non sto qui a sentire la musica del Satana, del Cinar, del Punto Emerso, questa roba qui. Non me ne frega un cazzo, ragazzi. Dai, ascolta, Giulio, che vuoi che ti mandiamo adesso, così per finire la. Che vuoi che mi mandate? Non dire che ti mandiamo lì. Perché cioè, noi abbiamo enorme rispetto, perché non ti manderemo. Professore, mai. Nulla aizzare. No. No, che vuoi, no. Che musica mandiamo dopo il tuo intervento? Che musica mandiamo? Manda la Madonnina. Mandiamo la Madonnina. La Madonnina. Penso poi dice, cioè, vabbè ragazzi, vi saluto, cioè qui penso che è irrecuperabile. No. Yeah. È irrecuperabile, hai detto bene. Hai detto una volta. Guarda che stai guadagnando punti. Stiamo piano piano incominciando a interloquire con Giulio, dai. Interloquire. Cioè, se io parlavo così, no? Cioè, ho stato 40 anni me la rivedrei. Se io andavo dal padrone, no, perché dobbiamo interloquire. Sì, io mi diceva no, ma interloquisci. Sì, sai che ti diceva? Cioè, sai che ti diceva? No, perché questa è la legge, no? Io dicevo una roba e lui diceva, ah no, ma guarda, non si può fare perché questa è la legge. Ma questa è la legge del Menga, ragazzi. Cosa incredibile, guarda. Cioè, una cosa incredibile. Vabbè, allora dai, non interloquiamo più, per carità. Ma per carità. Va bene. Bella saluto, Giulio. Grazie Giulio. Grazie. Un abbraccione. A presto. Ciao. vabbè, insomma, dopo la telefonata di Giulio rimaniamo tutti un po' con le nostre riflessioni. No, ringraziamo comunque Giulio il metallurgico di aver chiamato anche questa volta. Grazie di aver Sì, normalmente ovviamente noi ci sempre dissociamo da alcune locuzioni, appunto, che Giulio dice assolutamente fuori dalle righe. Però anche magari che noi non possiamo capire. Locuzioni, perché tanto non lo sa, penso che vuol dire lui. No, usiamo un dei termini più, di oppure lo sa, ma ci deride. Sì. Vabbè, niente, noi a proposito di Satana. Questa la dedichiamo a Giulio, loro sono i Blood Ceremony, la cerimonia del sangue. La Madonnina, no? La Madonnina, che piange sangue. Quindi dal disco che è Living with the Ancients, vivendo con gli antichi, sembra fatta apposta, eh? Questa è la prima traccia di apertura del disco che è Living with the Ancients. Anche questo uscito per Riseable Records, ce lo riascoltiamo da capo. E da Toronto, Canada, loro sono i Blood Ceremony. Li abbiamo ascoltati dal disco che è Living with the Ancients. Questa era la prima traccia, The Great God Pan, il grande dio Pan. E questo pezzo con il cuore, pensando al nostro fagiolino. Adesso invece abbiamo una novità, caro professore. Un'anteprima. Questo è un estratto in attesa dell'uscita del nuovo disco dei Monster Magnet. Hai capito? Accidenti. Ha cambiato le mutande? Latta? Forse ha cambiato metallo. Dal rame è passato all'alluminio. Alluminio cromato, cose sì, così. Sì, sì, sì. Sicuramente le copertine all'interno del disco saranno con le famose mutande di metallo. Sì, acciaio inox. Non sappiamo. Adesso aspetteremo. Questa è un'anteprima. Questa è un'anteprima. Vedremo la definizione finale della copertina. Quindi questo è un estratto dal disco che uscirà a nome di Last Patrol. David Widorf. E questo è per chi ci ascolta dalla Sardegna. Dalla Barbagia ci ascoltano. Oh, hai noi, okay, capito. Io amo la Barbagia, non cioè. E io pure. Accidenti. Ci sono stato anche non molto tempo fa. Quindi The Duke of Supernature, Master Magnet. insomma ci ha incuriosito un po' questo pezzo dal disco di prossima uscita dei Master Magnet. E vi andiamo a ricordare le giornate di lotta dell'ottobrata romana. E quindi dal 15 ottobre meeting point dalle ore 15 alla Sapienza, piazzale della Minerva. Dal 16 ottobre dalla mattina giochi di società, disturbo alla popolare. Dal pomeriggio per le strade del Prenestino, murales, aggiornamenti sul processo 15 ottobre. A seguire a buffata gratuita. Per poi proseguire il giorno 17 dalle ore 9 a Piazzale Clodio per il presidio solidale all'udienza processo del 15 ottobre. Dalle prime ore del mattino invece del 18 ottobre per le strade del Pigneto. Indovina chi devasta e saccheggia. Quindi questa era un po' per ricordare le date della prossima settimana. Complice e solidale con i rivoltosi e le rivoltose del 15 ottobre 2011. O almeno questa è una parte di tutte le iniziative che ci saranno. Comunque una città in mobilitazione, una città che si fa vedere in questi giorni, che già sono iniziati praticamente con una conferenza stampa che c'è stata oggi e via discorrendo. Andremo avanti fino al 19 appunto con la massima tranquillità, però senza arretrare di un passo e appunto dimostrando tutta la nostra, come dire, un po' di anni fa appunto in relazione al 15 ottobre era una forma di indignazione, ma diciamo siamo proprio stanchi, siamo stanchi veramente, siamo più che indignati. Eccolo. Sì. Noi dicevo continuiamo con le nostre selezioni. Mezzanotte 36, continuiamo con i nostri giochetti, dai. Voi fate i vostri, dirla alla Giulio. Voi fate i vostri, noi facciamo i nostri giochetti. Mezzanotte 37, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa, 87.9 MHz di frequenza. Però c'è un non so, sono un po' costernato. Sì. Qua non trillano, professor. E poi ci stanno pure. Sai che stavo pensando? Ci stanno. No, dobbiamo... E poi si lamentano, esatto. Perché poi ci sono venuti prima a trovare, non diciamo qui perché tanto non esistono. Sì. No, perché noi trilliamo e voi non rimandate i pezzi da capo. E niente, vabbè, quindi. Noi mandiamo sempre da capo. Sempre. Queste sono le illazioni. Seconda cosa, Gabriele. Gabriele. Sicuramente non ci far preoccupare. Sicuramente all'ascolto, Gabriele. Se Gabriele, ci sei, non ci far preoccupare. Trilla. Oh, è 0649 1750. 0649 1750. Questa me la rimando a capo da solo. Loro sono gli Horizon, sempre per la Risable Record, dal loro Second Assault. Ci ascoltiamo sempre la prima traccia. E visto che trillano, questo era proprio un Come Again. Radio Onda Rossa 25 o'clock, loro sono gli Horizon, da capo. E quindi ci siamo ascoltati Time Warrior, sempre da una produzione di Risable Records. Loro sono gli Horizon, Second Assault. Rimaniamo sempre sulla Risable Records, ci ha presa così. E ci andiamo ad ascoltare i Parson. Da una compilation proprio della Rise Above. Loro sono i Parson, questa è Vool. Con un po' di suspense. Oh, questa volta davvero, questi sono i Parson. Mezzanotte e 50, siamo quasi giunti alla fine. Però lo della 25esima ora. Creato. E lascerò i comandi. Lascerò i comandi qui al professore, perché è tempo per me di fermarmi. Perché già in sottofondo questa è Stop. Loro sono i Jane's Addiction. E per forza, da capo. Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Creado y regado de Los Ángeles, Juana's Adicción. Thank you. 100 candles burning, a salty sweat drips from her breast, her hips move and I can feel what they're saying, swaying. They say the beast inside of me is gonna get ya, get ya, yeah. Banana, sai che se ci smonti poi devi raccogliere i gocci. Cedrilla pure. Che poi noi ti riconosciamo, questo è il trillo classico tuo, insomma, sì, non, sì. È che, Cedrilla, non è che trilli così. Certo. Cioè. Poi Cedrilla è la seconda persona singolare del verbo cedrillare. Una e 01 Radio Onda Rossa 25 o'clock. Tipo negative. Onda Rossa 87 9 della modulazione di frequenza 06491750. Ma non mannamo da capo, eh. E lo diciamo. E invece la pensiamo diversamente, trasmissione in stato di grazia questa notte, ma domattina dobbiamo andarci a guadagnare la stozza. E perciò che... Ricordate quando Onda Rossa di notte mandava il reggae? Leave them at the door. We don't need no information. Living in the age of technology, but it's all the same to me now. Just keep it on the... Questi sono i suoni di Onda Rossa. Questa è ancora 25 o'clock. 87.9. Chi devasta e saccheggia, solidarietà a Marina, Alberto e Francesco. Eppure Ines, eh? In attesa della sentenza di appello che revisionerà la propria, il proprio parere riguardo agli altri condannati per i fatti di Genova 2001. Ne abbiamo tante, come dicevano gli Assalti, serrati bisogna essere uniti. Scrivete perciò a Marina Cugnaschi presso la seconda casa di reclusione di Milano, via Cristina Belgioioso 120, Bollate, Milano 20157. Il nostro fagiolino Alberto Funaro, casa circondariale Capanne, via Pia Vaiola 252006132, Perugia. Jimmy Francesco, casa circondariale di Roma Re Bibbia, nuovo complesso via Raffaele Maietti 70 00156, Roma, braccio G9, secondo piano. E tacciono Fat Freddy's Droppi, anzi solo Drop, loro ultima uscita 2013. Ebbene sì, fra poco andrà anche in automatico, eh. Noi detto ciò vi lasciamo, rimanete all'ascolto degli 87.9. La programmazione continua in compagnia della testè citata automatica Zara. Si riprende domani mattina alle 8 con la lettura delle prime pagine dei giornali, la rassegna stampa, i redazionali della mattinata a seguire. Miss Pavilchenko, erede di Maldestra, alle 12.15 all'incirca. Osservatorio Antifa, il giornale radio delle 13, lo spazio comunicazioni alle 13.30. A seguire Visionari, la trasmissione sul cinema di Radio Onda Rossa, e poi la trasmissione del TVO Teatro Valle Occupato. A seguire Attica Blues, oltre alla Black Music, Bella Piro, Bella Sonia, La Schiena del Sol della nostra Martis, Profondo Rosa, chissà. 18.30, 19.30, giornale radio, spazio comunicazioni a seguire, Allegro con Fuoco, che dovrebbe tornare, attenzione. Sì, ufficialmente, credo che ricominci proprio da domani sera alle 20.15. La musica classica, Radio Onda Rossa, Bella Mortimer, In Noctibus Panis, le repliche della trasmissione di Fagiolino, e a chiudere Apostasia. Bella così a tutte e a tutte, noi ci risentiamo mercoledì prossimo, Fantasma. A mercoledì prossimo. Ce ne andiamo sotto la luna comunista, bella. means